Effetto neve. Effetto neve con Massimo Di Scienza. Buon pomeriggio da Massimo Di Scienza, alle 16.32 minuti 10 secondi. Buona domenica, inizia qui un nuovo appuntamento con Radio 24, e che Radio 24 dedica alla Coppa del Mondo di sci, ai mondiali di sci, insomma a tutti i grandi eventi che si svolgeranno, che vi faranno compagnia da qui fino alla fine di marzo. Partiamo proprio alla vigilia dei mondiali di Garmisch, che iniziano domani con la cerimonia inaugurale e poi con la prima settimana di gare, insomma, quindi questa l'occasione che abbiamo colto per cominciare a parlare un pochino di sci e di fatto inaugurare il pomeriggio sportivo domenicale di Radio 24, che è quello che ben conoscete con tutti i suoi vari appuntamenti, che si snocciola dalle 16.30 fino alle 19, poi con l'appendice del basket, in cui il padrone di casa e chi se no non può che essere Carlo Genta. Ciao Carlo, ciao, grazie Massimo per l'ospitalità. Ma no, grazie per essere venuto a darmi una mano, così guardo con più attenzione le partite, non dico fesserie dopo. E noi intanto parliamo di sci mentre le partite si concludono, e insomma ovviamente però al calcio dedichiamo una finestra importante anche in questo effetto neve. Ci dai un po' il quadro della situazione, sì, Carlo, cosa sta succedendo? E volentieri, e poi vi aggiorno anche, sta succedendo, stiamo vedendo moltissimi gol sui campi. Il Milan capolista è per ora bloccato dal Genoa 1-1, gol di Pato e Floro Flores nel primo tempo. Anche la Lazio sta facendo fatica, è 1-1 in casa con il Chievo, perché dopo Hernanes al 19° della ripresa ha segnato Cesar in mischia. Di quelle di testa sta vincendo solo il Napoli, 1-0, gol di, indovina di chi? Cavani, 13°, 18° gol stagionale. Ma oggi per esempio è tornato al gol anche Amauri, chissà i tifosi della Juventus cosa dicono. Il gol del Parma segnato proprio da lui, poi il pareggio della Fiorentina con D'Agostino. Un sacco di gol a Lecce, il Palermo sta vincendo 4-2, e poi il Brescia in un confronto diretto salvezza in piena regola sta vincendo 1-0 con il Bari, gol di Diamanti su rigore al 16°, ma è ancora tutto in corso, quindi magari ci sarà qualcos'altro da dire più tardi, Massimo. Allora, resta collegato con noi Carlo, dacci aggiornamenti minuto per minuto come solo tu sai fare. Mi piace questa cosa del gol di Amauri, lo prendo come spunto, perché insomma è un gol che arriva in un momento delicato anche della sua carriera, appena passato dalla Juventus al Parma, ha fatto un gran gol oggi, una rovesciata meravigliosa, un grandissimo spunto, e mi piace che sia capitato praticamente negli stessi minuti in cui a Svisel nel gigante Federica Brignone, una ragazza di 20 anni, in qualche modo dava una svolta altrettanto importante, non soltanto alla sua stagione, ma proprio alla sua carriera, secondo me, andando a centrare il miglior risultato di una sciatrice azzurra in questa stagione. Secondo posto per Federica Brignone, infatti, nel gigante di Svisel, dietro la Rebenburg e davanti alla Zettel, insomma, un risultato davvero molto molto importante che voglio commentare dando il benvenuto all'inviato a prima firma dello sci della Gazzetta dello Sport, Pierangelo Molinaro, che ci ha già raggiunto. Buon pomeriggio Molinaro, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio anche a voi. Allora, parte effetto neve su Radio 24, miglior risultato della stagione per una sciatrice italiana. Se non volessimo così montarci la testa, diremmo che portiamo fortuna. Pierangelo, come dobbiamo così commentare questo risultato della Brignone? È un ottimo segnale per il nostro sci alla vigilia dei mondiali, perché poi arriva soprattutto da un atleta giovane, quei giovani che tanto spichiamo che arrivino al vertice. E oggi Federica ha fatto un vero capolavoro nella seconda manche, perché purtroppo non ha vinto perché era eccessivo il distacco dalla tedesca Reserburg dopo la prima manche, ma nella seconda ha tirato fuori tutta la classe di cui è dotata e ha stabilito il miglior tempo infliggendo distacchi pesantissimi alle avversarie. Te l'aspettavi, Pierangelo, questo tipo di risultato in questo momento della stagione? No, sono sincero, non me l'aspettavo, anche perché Federica in questo inizio di stagione aveva fatto un buon risultato ad Aspen a novembre con un 5° posto, ma dopo non aveva mai saputo rivelarlo questo talento. Pareva nervosa, svogliata, quasi incapace di decidere una tattica di gara. Oggi la chiave l'ha trovata attaccando senza pensare troppo, perché quando si ha il suo talento, soprattutto la sensibilità dei suoi piedi, si può fare questo ed altro. Allora sentiamo la Federica Brignone, che abbiamo raggiunto al telefono proprio qualche minuto fa. Ovviamente partiamo dalla grande soddisfazione, l'enorme gioia per questo risultato così importante. Ma devo dire che sono molto contenta, anche perché vista la giornata di oggi, non speravamo neanche di fare la gara a questo punto. Era 3 giorni che eravamo qui ad aspettare questa gara, e anche oggi quando siamo arrivati in pista c'era di nuovo nebbia, vento e neve molle, e abbiamo detto no, cavolo, non si farà mai, peccato, perché la pista era bella, era dura, era ripida, quindi adatta comunque alle nostre caratteristiche, e niente, mi spiaceva. Poi quando alle 11:30 è venuto fuori il sole non ci credeva nessuno, e trovare la concentrazione è stato molto difficile, soprattutto per la prima manche. Più cercavo di concentrarmi, più non ci riuscivo, e quindi la prima manche sono caduta in tutti quegli errori che facevo quest'estate, quest'autunno, e non sono riuscita a scegliere il meglio. E poi invece nella seconda manche, la grande rimonta dal nono al secondo posto, qual è stato il tuo segreto, Federica? Nella seconda manche sapevo che avevo tracciato il mio allenatore, ero convinta e sapevo quello che dovevo fare per non fare gli errori della prima manche, e ci ho provato, poi o la va o la spacca, insomma, non, io ragiono così. E arriva questo risultato alla vigilia dei mondiali di Garmisch. Con quale spirito vai adesso ad affrontare questo appuntamento? Ma sinceramente spero che adesso che ho fatto un podio non mi saltino tutti addosso prima della gara dei mondiali e che mi lasciano un po' in pace. Però comunque, anzi, mi dà solo fiducia e spero di fare bene anche lei. Che grinta, insomma, per la Brignone, vero Pierangelo? Hai sentito? Spero che non mi diano tutti addosso adesso, non diventare l'elemento su cui si va poi a puntare l'attenzione dei media, eccetera, perché questo è un po' il nostro rischio, no? Quello di caricare di eccessiva pressione un solo atleta. Certamente, comunque Federica è il suo caratterino. Abbiamo sentito. Un caratterino non penso semplice anche per allenatori e tecnici, però il fatto è che normalmente il carattere in questo caso nasconde anche il suo talento. Bisogna avere un po' di pazienza, anche perché io penso che il suo problema in questo periodo sia stato proprio un po' l'impazienza, la voglia di arrivare, la voglia di bruciare le tappe, perché è conscia dei suoi grandi mezzi tecnici e adesso può rivelarli. Lo dicevo, se forse ha trovato la chiave, cioè gareggiare a testa libera come ha fatto nella seconda manche, può veramente regalarsi delle grosse sorprese. Il fatto che, e non l'abbiamo detto finora, ma insomma lo diamo un po' per scontato noi, ma magari poi il grande pubblico non lo sa, il fatto che sia figlia di una grande atleta del passato come Maria Rosa Quario, secondo te può essere, come dire, la carta vincente anche per il proseguo della carriera? Cioè avere una grande, importante atleta in famiglia che può darle i consigli giusti può contare, secondo te? Ma dal mio punto di vista, portare un cognome, non è il suo caso, perché porta il papà, il nome, il cognome di papà, però è sempre un peso, è sempre un dover far qualcosa che la gente sospetta da te, non penso sia semplice per Federica. Penso che non l'aiuti questa cosa, penso che lei sarebbe più libera se non fosse figlia di Maria Rosa, anche se da Maria Rosa e da papà possono arrivare consigli importantissimi. Molto interessante questa considerazione, Pierangelo. Quali saranno le altre? Poi ne parliamo meglio nella seconda parte, perché avremo con noi un'altra grande sorpresa in questo primo numero di Effetto Neve. Secondo te quali saranno comunque, e anticipiamo un pochino il discorso, per quanto riguarda la squadra femminile, le carte vincenti a disposizione di Ravetto e del suo staff per fare bene a Garmisch? Ma è difficile da dire, perché la situazione è un po' ingarbugliata, non solo riguardo alla nostra squadra. Cioè, abbiamo nelle prove tecniche, oltre a Federica, abbiamo Manuela Merz, che oggi purtroppo è caduta subito, ed è un peccato perché sta lasciando molto bene nella prima manche. Manuela può sicuramente far qualcosa anche in slalom. Allora, sulla carta, una settimana fa invece nelle prove veloce tutti i pronostici parevano chiusi dalla superiorità schiacciante di Lisa Yvonne, la statunitense, e di Maria Risch, la tedesca. Nell'ultima settimana le cose invece stanno un po' cambiando, perché mentre Yvonne è caduta in allenamento e oggi ha dichiarato dopo il gigante che non è affatto sicura, ad esempio, di partecipare al Super G, Maria Risch, che a Garmisch gareggerà in casa, lei ha detto che da casa, dalle finestre della sua camera si vede addirittura la pista da slalom, Maria Risch ha dato segno di soffrire un po' la pressione, soprattutto nello slalom disputato qui a Zwiesel venerdì scorso, in cui è uscita nella prima manche in un modo non da risce. Ecco, se i pronostici si aprono, noi abbiamo, vuol dire che abbiamo soprattutto Daniela Merighetti, che è stata costante nella stagione, sempre abbastanza vicina alle prime posizioni. Elena Facchini, che è un'altra ragazza di talento ed è in crescendo. E poi Johanna Snarf, che dopo il secondo posto dell'anno scorso a Crans Montana, il quarto a pochi centesimi dal podio alle Olimpiadi di Vancouver, forse potrebbe cominciare davvero a tornare a quella che conosciamo. Io non sarò solo in questa avventura di Effetto Neve che, come dicevamo, parte oggi e si concluderà con la fine della Coppa del Mondo, perché avrò al mio fianco, anche se purtroppo soltanto virtualmente, Elisa Calcamuggi, inviata di Sky Sport, che ci farà compagnia fino alla fine di marzo, fino alla fine della Coppa del Mondo, inviata di Sky Sport, che sarà anche a Garmisch ai mondiali che iniziano domani. Buon pomeriggio Elisa, eccoci qui, benvenuta su Radio 24. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Elisa, abbiamo già detto prima, chiacchierando con Pierangelo Molinaro, partiamo con il botto, perché oggi è il giorno di Federica Brignone. Tu l'hai conosciuta, la conosci bene, insomma, che personaggio è Federica Brignone, che oggi, lo ricordiamo, ha colto il miglior risultato della stagione nella Coppa del Mondo con il secondo posto del gigante di Zwiesel? Sicuramente Federica è un personaggio molto estroverso, molto eccentrico, diciamo che rispetto alle sue colleghe, anche se molto più giovane di loro, è arrivata e ha sempre cercato di essere al centro dell'attenzione sia con gli sci che come personaggio. Quello che ha detto Pierangelo secondo me è corretto, il fatto di avere questa eredità non aiuta. Però lei è un cavallo di razza e la gara di oggi lo ha dimostrato. È difficile e forse la cosa più che dice sempre, che tomba scherzando nelle sue frasi che butta là ogni tanto, vincere è facile, sì, e rivincere è più difficile. Quindi Federica lo scorso anno si è ritrovata davvero ad essere fra le prime, fra le migliori gigantiste di Coppa del Mondo, ed era quello che pensava di poter ottenere. Forse quando si era ritrovato davvero fra le mani, poi riuscire a gestirlo non è stato così semplice. Quest'anno, quando lei ha dichiarato nella conferenza stampa pre-mondiale di qualche giorno fa, punta una medaglia, tutti quanti abbiamo detto mamma mia, ma fino adesso in Coppa del Mondo non è riuscita ad arrivare sul podio, come fa a dire punta una medaglia? Però lei è così e oggi infatti lo ha dimostrato. Il famoso caratterino di cui parlavamo anche prima con Pierangelo Molinaro, che spero voglia trattenersi con noi ancora qualche minuto, perché adesso ci fermiamo per dare gli ultimi aggiornamenti di traffico, poi torniamo perché nella seconda parte di Effetto Neve dobbiamo, ahimè, commentare, dopo le buone nuove, anche le cattive nuove, ovvero l'altra giornata, l'altra domenica negativa per gli uomini nel gigante di Intersoder, e poi proiettarci ovviamente sui mondiali di Garmisch che stanno per iniziare. Effetto Neve. Effetto Neve. Le 16:46 minuti ancora in diretta su Radio 24, seconda parte di Effetto Neve, sempre con Massimo Di Scienza, Elisa Calcamuggi, inviata di Sky Sport, e Pierangelo Molinaro, inviato della Gazzetta dello Sport. Abbiamo esaurito il capitolo, almeno per il momento, che riguarda Federica Brignone e la pattuglia azzurra. Elisa, dobbiamo parlare un po' anche dei maschietti, degli uomini che archiviano la parentesi di Intersoder con insomma tanti rimpianti e pochi risultati, però, no? Come andate? Diciamo che io ho ancora negli occhi le immagini dello slalom gigante di oggi, che ha lasciato un po' tutti con l'amaro in bocca, penso, perché c'è una squadra che fino a pochi anni fa era tra le più forti al mondo e ce la invidiavano tutti, e adesso è una squadra che fa fatica a ritrovarsi, perché è vero che bene o male arrivano i giovani che dimostrano di andare bene, di andare forti, prima di tutti Jansrud oppure oggi Scherhofer, però è anche vero che i nostri bene o male sono abituati a gareggiare con personaggi di questo tipo, quindi va bene che ci siano i giovani che arrivano, però è anche giusto che i nostri, che sono sempre andati forti, riescano ad essere a livello dei primi. Invece oggi abbiamo visto Blardone aprire la seconda manche, cioè significa che ha chiuso la prima manche al 30° posto, poi ha fatto un grosso errore nella seconda nel tentativo di recuperare, adesso è addirittura 28° in classifica. Però effettivamente è una squadra di gigante che fa fatica a ritrovarsi, anche Simoncelli è poi uscito nella seconda manche ma non stava facendo bene, Ploner, che era lì per giocarsi la qualificazione al mondiale, anche lui lui non è riuscito assolutamente a cambiare marcia e ad aggredire la seconda manche, tanto che probabilmente, adesso non sono io il direttore tecnico, ma facilmente Borsotti, che oggi ha chiuso al 15° posto, il giovane Borsotti del 90, si è guadagnato lui il posto per il mondiale. Bene che sia così da un lato, perché come dicevo è importante che i giovani arrivino, però i nostri soliti Möller, Blardone e Simoncelli in slalom gigante eravamo abituati a vederli davanti. Allora, tu hai posto una prima questione decisamente spinosa, visto che ti sei fatta una domanda, Elisa, hai chiesto se ti chiedevi se Borsotti si era guadagnato una maglia per i mondiali. Noi lo chiediamo a chi poi decide questo tipo di situazioni, cioè Claudio Ravetto, direttore agonistico delle squadre nazionali azzurre. Grazie per averci raggiunto, Ravetto, buona domenica. Buongiorno, buongiorno a voi. Buon pomeriggio. Allora, Borsotti? Borsotti si è qualificato, sì, parteciperà ai mondiali. Bene, Elisa Calcamuggi ha avuto la notizia che si aspettava. Diciamo un raggio di sole, Ravetto, in un pomeriggio, parliamo degli uomini perché poi delle donne parliamo con calma, in un pomeriggio, insomma una mattinata, un pomeriggio Interstoder tutt'altro che soddisfacente, no? Sì, tutt'altro che soddisfacente. Già le ultime gare di gigante non erano state ai nostri livelli, diciamo, e mi aspettavo una reazione. Questa reazione oggi in realtà non c'è stata. È vero che sui giganti pianeggianti facciamo sempre fatica, ma anche sulla parte ripidica, forse solo Simoncelli nella prima manche ha fatto vedere qualcosa di buono. Il resto non c'è stato. Ha fatto bene Borsotti con un'ottima seconda manche. Non c'è il quarto, non si è qualificato il quarto gigantista, quindi era giusto portare un giovane, quindi è giusto che venga lui. Lascio la parola agli esperti. Pierangelo Molinaro per il direttore Ravetto. Sono qua. È tutto il giorno che la tortura della verità Ravetto per cercare di anticipare le squadre. Esatto, a te l'onore di fare la domanda spinosa numero due. A questo punto vorrei chiedere a Ravetto dove sinceramente lui si aspetta delle medaglie. Sì, mi aspetto delle medaglie, mi aspetto delle medaglie dalle discipline veloci maschili, mi aspetto delle medaglie dallo slalom, mi aspetto delle medaglie dallo slalom femminile, tutto sommato. Forse un po' più difficili, ma nella discesa femminile ci sono due o tre atlete molto forti e noi lì non facciamo un po' fatica. Elisa Calcamuggi, anche per te una domanda per il direttore Ravetto. Ma io so che Ravetto ha sottolineato più volte quest'anno il fatto che siamo arrivati tante volte quarti, mi sembra 8 volte in totale, e chiacchierando con Inerofer a Bormio quando era arrivato terzo ha detto: smettetela di chiedere come potevo fare ad arrivare secondo o primo, ormai è già tanto difficile arrivare terzo. Allora magari proprio pensando a quelle che sono le gare di Garmisch, a quelle che sono le piste di Garmisch, effettivamente se tutti questi quarti posti possono diventare dei posti da podio, da medaglia, perché là conta poi quello. Credo che questa volta sì, davvero lo spirito deve essere diverso. Con Inner ho parlato ieri, in queste gare di Coppa del Mondo lui ha avuto sempre un atteggiamento conservativo, diciamo così, nei punti critici non ha mai voluto sbagliare, voleva conservare un po' la posizione. Per me è un atteggiamento sbagliato, sicuramente sbagliato ai mondiali. Tutti questi quarti posti sono maturati anche, parlo per esempio dello slalom, per calcoli. De Ville doveva fare il primo gruppo, Razzoli e Merlo dovevano mantenere il primo gruppo per i mondiali. Adesso in questi 15 giorni non ci saranno queste scuse, diciamo così, bisogna tirare per fare la medaglia, bisogna andare forte per vincere. Spero che gli atleti ce l'abbiano ben chiaro, ne discuteremo ancora, ne parleremo ancora. Questo deve essere lo spirito e magari tutti quei quarti posti si trasformano in qualcosa di meglio. Ravetto, voi dello staff tecnico avete lavorato anche sotto l'aspetto psicologico, proprio per cercare di motivare una squadra che comunque esce da una prima parte di stagione con voti insomma leggermente al di sopra della sufficienza, ma poco di più? Sì, lo faremo. Come detto, ho già iniziato. Il Nerofer in questi campionati del mondo deciderà se diventare un campione vero o diventare uno di quelli che si qualificano sempre. Lo sa bene, già due volte è arrivato nel gradino più basso del podio, una volta quarto, alle Olimpiadi sesto, a pochi centesimi. Adesso è proprio la voglia è il momento di cambiare marcia. tutti ci chiedono delle buone prestazioni ai mondiali o alle Olimpiadi, che la Coppa del Mondo non era così importante, magari questa volta è la volta buona, la Coppa del Mondo è andata un po' così, arriviamo un po' con l'acqua alla gola e speriamo tutti assieme di riuscire a far bene. Molinaro, vogliamo però fare anche i complimenti a Ravetto per il risultato della Brignone, perché poi sembra insomma che parliamo soltanto delle cose che non sono andate bene in questa stagione. I complimenti e la felicità per noi, perché il problema di cui si discuteva nelle ultime settimane era proprio la carenza di giovani, la latenza, la latitanza dei giovani già in squadra che faticavano a crescere, faticavano a maturare. Io direi che il secondo posto di Paris a Chamonix e questo secondo posto della Brignone di oggi siano veramente bene auguranti. Lo sono, Ravetto? È così, noi giovani ne abbiamo anche altri in discesa, ne abbiamo, oggi ha debuttato Casse che è un giovane molto interessante, Marsaglia fa il super gigante, a mio giudizio ne abbiamo, forse nelle discipline tecniche femminili ne abbiamo qualche difficoltà, soprattutto in slalom, lì sì. E lo slalom è un problema sia a livello maschile, anche se abbiamo 2 o 3 cavalli di razza ancora, e nelle donne ancora di più, perché dietro la Merck non abbiamo nessuna giovane da portare, purtroppo. Bisogna lavorare in questi anni nella nostra tradizione, lo slalom, non siamo più a quei livelli, anche se abbiamo il campione olimpico, bisognerà fare qualcosa con i giovani, con i comitati, con i club. Elisa Calcamuggi, tempo per un'ultima botta e risposta con il CT della nostra nazionale. Elisa. Chiaramente i complimenti vanno per i bei risultati, quelli è vero che forse si dimentica sempre quando poi ci sono le belle cose da raccontare, si tende a pensare a quelle negative, però io mi sono proprio chiesta anche oggi guardando il gigante che cosa passa nella testa di Matteo Guadagnini, l'allenatore dei gigantisti, perché conoscendo la persona, sicuramente in questo momento insieme a Ravetto avranno riflettuto e pensato parecchio per come fare a recuperare dei ragazzi che normalmente lottano per il podio. Sì, è così, la squadra del gigante è in difficoltà, lo era già da un po', abbiamo parlato fra di noi, abbiamo cercato di analizzare quali sono i motivi, abbiamo cercato di in questi 15-20 giorni che c'erano questo gigante di risolverli, così non è stato, proveremo ancora, cercheremo ancora di lavorare sul materiale, cercheremo ancora di lavorare sulla mentalità, cercheremo di lavorare sul tracciato dei mondiali, quindi arrivare lì preparati su quella pista che l'anno scorso ci aveva portati buoni risultati. Io spero ancora che per la prima volta la squadra di gigante arriva a un grande evento con i fari spenti, completamente spenti, peggio di così non si può, siamo sempre arrivati come squadra, una delle squadre favorite, quest'anno no, magari la reazione ci sarà proprio lì. Lo vedremo ovviamente in pista. Per quanto riguarda il gigante, se ne parlerà il venerdì 18 con il gigante maschile, e mentre giovedì 17 il gigante femminile, poi sabato 19 le donne in slalom e domenica 20 la chiusura con lo slalom femminile. Invece per quanto riguarda la partenza, martedì il super gigante femminile. Claudio Ravetto, per quale squadra tifa lei? Per l'Italia, del calcio. Della Juventus nel calcio. Nella Juventus, che non era impegnata oggi pomeriggio, ieri ha vinto a Cagliari. Allora lo chiediamo a Pierangelo Molinaro: per quale squadra fa il tifo, Pierangelo? Ma io candidamente lo guardo un po' da lontano il calcio. Allora proviamo con Elisa. Elisa, per quale squadra tifi? Io sono messa come Claudio, arrivando dalle zone Val d'Aosta e Piemonte, insomma, siete la Juve. Che siamo un covo di juventini. Allora, Carlo Genta, qui i juventini disinteressati perché soddisfatti da ieri, sì. Invece come sono andate le squadre perché del pomeriggio? È stata anche la rabbia dell'altro giorno, sì. Un po' immotivata, secondo me, ma poi ne parlo con gli ascoltatori. Lasciamo stare, vabbè, come vuoi. Dopo ne parlo con gli ascoltatori. Intanto oggi turno favorevole a tutti quelli che inseguono. Sembra un po' che tutti giochino con l'Inter, che sarà in campo stasera con la Roma, aggiungendo Pepe, perché il Milan rallenta ancora 1-1 a Genova con il Genoa, 4 pareggi, 2 vittorie nelle ultime 6 partite per il Milan, l'unica che corre tra quelle di testa è il Napoli, 2-0 al Cesena. A proposito, non vi ho interrotti anche perché di gol ne abbiamo visti solo un paio, sì. E non determinanti per il risultato, perché c'è stato appunto il raddoppio del Napoli con Sosa al 47esimo della ripresa. Il raddoppio del Brescia che ha battuto 2-0 al Bari con Caracciolo anche qui in tempo di recupero. La Lazio pareggia 1-1 con il Chievo, Hernanes e Cesar. Il Palermo vince 4-2 a Lecce, difesa del Lecce che si conferma tutt'altro che impermeabile, insomma. Ed è un 1-1 tra Parma e Fiorentina con Amauri che sembrava il fratello buono di quello che hai visto per tante volte con, che avete visto voi juventini per tante volte con la maglia della Juve. Ci siamo sorbiti, potremmo anche dire. 800 24 00 24 il numero per parlare con Carlo Genta dalle 17 in poi in A Tempo di Sport. 349 238 6666 il numero per i vostri SMS. Noi di Effetto Neve invece ci salutiamo qui. Io saluto Claudio Ravetto, direttore agonistico delle squadre nazionali di sci, ovviamente in bocca al lupo per i mondiali. Saluto e ringrazio Pierangelo Molinaro, inviato della Gazzetta dello Sport, mentre con Elisa Calcamuggi ci ritroviamo domenica in diretta da Garmisch per commentare la prima settimana di gare. Grazie a voi per averci seguito, buona domenica a tutti e avanti con lo sport su Radio 24. Effetto Neve. Effetto Neve.